12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi andremo alla scoperta di una professione che, soprattutto in questo periodo dell'anno e nel nostro territorio, ha molto da fare, ovvero proveremo a capire meglio come diventare una guida turistica abilitata. A raccontarci come intraprendere questo percorso e che cosa vuol dire esattamente fare questo mestiere sarà il nostro ospite Andrea. Secondo la legge quadro sul turismo è guida turistica chi per professione accompagna persone singole o in gruppi nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali. Una specifica è bene dirla subito, questa professione non va confusa con quella di accompagnatore turistico, che lavora invece principalmente per tour operator o agenzie, occupandosi della buona riuscita del viaggio. Per fare il mestiere della guida turistica è fondamentale la conoscenza delle lingue straniere. Ed oggi non si tratta più solo di inglese, francese o tedesco, ma ci sono sempre più richieste di persone che parlino russo ed in generale le lingue asiatiche. Ad una guida turistica viene anche richiesta, naturalmente, un'ottima conoscenza storica del territorio, sia per quel che riguarda le opere d'arte che i beni archeologici. Per poter esercitare la professione di guida turistica bisogna superare un esame abilitativo, il cosiddetto patentino, che è di competenza provinciale. La provincia di Venezia e di Treviso, ad esempio, di norma indicano l'esame ogni biennio. L'ultima sessione è stata nel 2012 per entrambe le province, quindi nel 2014 uscirà il prossimo bando per poter ottenere l'abilitazione. I requisiti di accesso all'esame sono avere la cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea o, se cittadini extracomunitari, aver regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno, appunto, la maggiore età e il possesso del titolo di studio di laurea. Una volta superato l'esame ci si può iscrivere nell'elenco provinciale delle guide turistiche pagando la tassa di concessione governativa, che è una tantum, e frequentando un corso di formazione gratuito di primo soccorso organizzato proprio dalla provincia della durata di 4 ore, a meno che non se ne abbia già frequentato uno di analogo. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora proviamo a capire meglio qual è il percorso da intraprendere per diventare una guida turistica e che cosa vuol dire esattamente fare questo mestiere insieme al nostro ospite Andrea Donà. Ciao Andrea, benvenuto a 12 minuti. Ciao Donna, come va? Tutto bene. Andrea, per prima cosa, che cosa significa essere una guida turistica? Allora, dal punto di vista pratico vuol dire portare in giro delle persone o dei gruppi di persone in giro per una città, far vedere i monumenti principali e i musei. Da un punto di vista diverso è far amare la tua città da altre persone, per così dire. Certo, quindi Andrea, quali sono le competenze indispensabili per esercitare questa professione e quindi secondo te anche un po' qual è il percorso formativo o le cose che insomma bisogna apprendere secondo la tua esperienza appunto per poter fare la guida turistica? Le competenze indispensabili sono tante, soprattutto per una persona come me che la fa a Venezia, quindi una città che potete capire bene piena di monumenti, di cose da vedere. Le competenze indispensabili sono comunque di storia della propria città, di storia dell'arte, la geografia, l'enogastronomia, essere un esperti dei promotori di tutto ciò che è bello e buono nella propria città. Le competenze principali può essere molto utile studiare la storia dell'arte e le lingue straniere. Le lingue straniere sono fondamentali. Ecco Andrea, nella prima parte accennavo al fatto che per poter diventare una guida turistica bisogna passare un esame abilitativo. Ci racconti esattamente di cosa si tratta? Le province organizzano in genere ogni 2 anni un esame abilitativo per le professioni turistiche, guida, accompagnatore, eccetera. L'esame abilitativo è piuttosto duro, è diviso in 3 scritti, 3 orali. basato, come ho detto anche prima, sulla storia, l'arte, la geografia e le lingue straniere. Quindi non è che ci sia un'università o un percorso formativo preciso da seguire e si diventa guida, è molto di più un collage di pezzi formativi. Uno può partire dalla storia dell'arte e aggiungere le lingue, uno può essere un esperto di lingue e poi darsi alla storia dell'arte o alla storia, per esempio. Andrea, nella prima parte della puntata ho un po' accennato al fatto che per poter diventare una guida turistica bisogna passare appunto un esame abilitativo. Ci racconti esattamente di cosa si tratta? Sì, gli esami abilitativi vengono organizzati dalle varie province e si diventa guida turistica per una provincia. In genere funzionano in questo modo: c'è un primo esame scritto generale sulla storia, l'arte, la geografia, l'enogastronomia e anche il primo soccorso. Chi passa quel primo esame, che è uno scoglio notevole, deve fare due esami di lingue straniere a sua scelta, poi passando anche quei due esami approderà un orale dove vengono chieste tutte le varie materie. Molte persone provano l'esame senza capire la difficoltà e la preparazione che ci vuole. Io consiglio di informarsi a fondo su come sono organizzati gli esami e capire se il tipo di lavoro, di professione può piacere, perché con la passione si può raggiungere qualsiasi risultato, insomma. Certo, Andrea, ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi rientriamo in studio e continuiamo la nostra scoperta della professione di guida turistica. I wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo cercando di capire come poter intraprendere la carriera di guida turistica e il nostro ospite Andrea Donà nella prima parte della puntata ci ha spiegato come funziona l'esame abilitativo provinciale indispensabile per esercitare questa professione e quali sono le competenze richieste. Andrea, ma come si arriva effettivamente a svolgere questa professione, ovvero una volta superato l'esame, poi quali sono i canali attraverso su cui si accede a questo lavoro? I canali sono diversi. I principali sono presentarsi alle varie agenzie turistiche, ce ne sono diversissime in territorio locale, nazionale e internazionale. Queste agenzie propongono ai clienti che arrivano nelle varie città dei tour guidati, dei maggiori monumenti, dei tour enogastronomici, dei tour sulle curiosità e così via. Un altro modo per cominciare a lavorare è presentarsi alle associazioni di categoria e siccome in questo periodo c'è lavoro in questo ambito, le associazioni di categoria cominciano a introdurti al lavoro e poi conoscendo le altre guide turistiche col passaparola ci si scambia lavoro, senza dubbio. Ecco Andrea, una specifica, quindi ci si propone a queste diverse realtà, ma poi come funziona? Cioè è un contratto di assunzione, si ha dei liberi professionisti? Ah certo, è fondamentale, si ha liberi professionisti, si apre partita IVA, si ha liberi professionisti e si può scegliere quando lavorare, come lavorare, con chi lavorare. Si può aprire anche un sito internet e proporre i propri tour, i propri servizi tramite un sito internet. E, sì, quindi si è liberi professionisti. Certo, e quindi bisogna anche insomma un po' autopromuoversi. Certo, Andrea, quello è fondamentale. Andrea, prima accennavi al fatto che questo periodo sicuramente è un periodo più attivo. Ecco, la guida turistica nel nostro territorio, appunto, pensiamo che durante l'anno magari ci sono dei periodi più intensi, periodi meno, è effettivamente così? Senza dubbio è legato ai flussi del turismo, quindi in primavera e autunno nelle città d'arte c'è molto turismo e si lavora spesso 7 giorni su 7. In estate si lavora un po' di meno, ma abbastanza. In inverno il lavoro cala nettamente, si può lavorare qualche volta, però ci sono anche dei periodi morti, diciamo. Certo, e quindi insomma si sa ecco, che durante l'anno ecco, si hanno proprio dei picchi di lavoro maggiori rispetto ad altri. Andrea, che consigli ti sentiresti di dare ad un giovane che volesse intraprendere questa carriera appunto su come muoversi per avere delle opportunità concrete? Beh, il primo consiglio, che però è un consiglio generale un po' per tutti i lavori, se essere curiosi, se si ama il posto dove si abita, dove si vive oppure dove si è nati, andare a scoprirlo sempre di più. Non si finisce mai di scoprire la propria città, il proprio luogo. Secondo consiglio è quello di non rimanere dilettanti, ma di cominciare a capire la differenza tra apprezzare, vedere con piacere qualcosa e invece studiarla, capirla per poterla raccontare a qualcuno. Il fatto di per esempio in un museo conoscere delle opere per se stessi non vale un granché per la guida se poi non sai trasmettere la tua passione, la tua conoscenza a qualcun altro. E poi scegliere degli studi che possano portare in quella direzione, quindi o storia dell'arte o lingue straniere o anche architettura per esempio. Certo, e quindi insomma incominciare già a fare un percorso appunto nella direzione, no? Poi di quello che sono le competenze e i requisiti necessari per svolgere questa professione. Sì, certo. Andrea, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi a 12 minuti e per tutte le informazioni e i consigli che ci hai dato. Grazie a te. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse diventare guida turistica vi segnalo il sito sia della provincia di Venezia che di Treviso dove poter trovare tutte le informazioni riguardo l'esame di abilitazione e una serie di informazioni a 360 gradi su questa professione www.turismo.provincia.venezia.it e www.turismo.provincia.treviso.it. Vi segnalo anche alcuni link utili per chi ha in mente di orientarsi in questo campo. www.turismovenezia.it, il sito dell'azienda di promozione turistica di Venezia, ambito territoriale di Venezia, al cui interno potete trovare le sezioni specifiche delle aziende di promozione di Jesolo ed Eraclea, Chioggia, Cavallino Tre Porti, Bibione e Caorle. www.federalberghi.it, sito appunto di Federalberghi, organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani. virgo.unive.it/ciset/website, che è il sito del Centro Internazionale Studi sull'Economia Turistica fondato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, dalla Regione Veneto e dal Touring Club Italiano. www.turismoefinanza.it, che è il sito di Turismo e Finanza, agenzia di informazione online sul turismo, e infine vi segnalo il sito del Comitato Proloco Unpli Veneto, che è www.unpliveneto.it. E per oggi è tutto. Prima di salutarvi, anticipazione sulla prossima puntata, nella quale ci addentreremo nel settore dell'agricoltura e capiremo cosa vuol dire oggi essere un agricoltore. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.